Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo, seduto al banco delle imposte, e gli disse: "Seguimi." Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori, e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: "Come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori?" Udito questo disse: "Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire: misericordia io voglio e non sacrifici. Io non sono infatti venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori." Oggi celebriamo la festa di Matteo, San Matteo Apostolo ed Evangelista. E qui Gesù sta chiamando Matteo, che era un pubblicano, un esattore delle tasse, un uomo tutto dedito a un'attività piuttosto peccaminosa, perché appunto, come succede molto spesso anche oggi, chi è impelagato nell'amministrazione, nella politica, molto spesso si trova anche purtroppo a defraudare, a rubare. E Matteo non è che fosse così innocente, eppure Gesù lo chiama proprio nel momento in cui lui si trova in questa situazione probabilmente di peccato e lo chiama a seguirlo. E che fa lui? Si alza e lo segue. E poi Gesù segue anche Matteo perché siede a tavola nella casa probabilmente di Matteo, dove ci sono altri pubblicani e peccatori. E che cosa succede? Subito viene criticato. I farisei vedono questo e chiedono ai discepoli: "Ma come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e peccatori?" Si vede che questa domanda è una domanda, una critica in sostanza. E allora oggi vorrei fermarmi più su questo che sulla chiamata di Matteo. Vorrei soffermarmi sull'abitudine che noi abbiamo a criticare. Critichiamo continuamente, pensiamo a quante volte al giorno emettiamo critiche, giudizi. Giudizi negativi, perché la critica per lo più purtroppo è sottolineare i difetti, le cose sbagliate, le pecche. Quello che non va, quindi vedere sempre il lato negativo delle cose e delle persone. Siamo un po' abituati tutti a emettere giudizi continuamente, lo fa la stampa, lo facciamo noi, lo fanno le persone comuni, lo facciamo un po' tutti quanti. Allora, oggi vogliamo essere più consapevoli di quanti giudizi emettiamo e cercare un po' di smettere di criticare gli altri. Prima di tutto, per poterci riuscire a toglierci questa abitudine, dobbiamo esserne consapevoli, perché molto spesso critichiamo, ma apriamo bocca e gli diamo fiato, non siamo nemmeno consapevoli di quante critiche emettiamo. Poi capire da dove viene la critica. Spesso la critica viene dal fatto che vogliamo distogliere l'attenzione da noi, perché magari abbiamo dei problemi irrisolti e preferiamo concentrarci su quello che sbagliano gli altri. Magari vogliamo salvare la nostra autostima, magari vogliamo sentirci un pochino più in alto degli altri, allora cerchiamo di abbassarli. Magari proiettiamo negli altri i nostri stessi errori. Tante sono le motivazioni che ci spingono a criticare. E dobbiamo scoprire qual è la nostra motivazione più frequente che ci spinge ad emettere giudizi spesso avventati e capire che criticare non serve a niente, serve soltanto a perdere tempo, a far perdere tempo agli altri, a scoraggiare, a mettere il mondo sempre più in subbuglio, a non valutare e non promuovere e non migliorare né noi stessi né gli altri, ma invece a creare una tensione, stress in noi e attorno a noi e nel mondo in cui viviamo. Allora oggi facciamo proprio il proposito di non criticare e anzi, prima di tutto di esserne consapevoli e poi vedere di non criticare perché non serve a niente, ma se dobbiamo dire qualcosa di carino, diciamolo. Se non dobbiamo dire niente di carino, c'è un'alternativa, il silenzio. Quindi cerchiamo di fare silenzio invece di criticare. Buona giornata.